Attenzione alle foglie secche che se va lunghi. Orb di Genervo. Nuovi stili e feel, baby. Free mind, mente libera. E mentre sto seduto sulla scrivania, sperimento la mia scarsa autoironia. Sì, c'è una poca, sono pure permaloso. Sorpeggio e degli altri sono pure invidioso. L'erba del vicino è sempre più verde, anche se c'è il prato che è pieno di merde. Pure tu lo sai, e gli altri cosa fanno? Chissà ora i miei fan cosa penseranno. Cioè devo riuscire, io lo devo fare. Non mi fotto un cazzo tu di quello che te pare. Se sfamo mille canne e se ne la marmare. Se vado con lei, chiaro me la deve dare. Ma fallo come noi, non ci riuscite. Metà delle rime manco cazzo le capite. Purtroppo è così, ma che ce devo fa? Io sono un incompreso, questa è la verità. Penso solo con razionalità. Mi trovo sempre chiuso in questa cazzo di realtà. E a volte penso che me ne vorrei anà. Ma non c'ho il coraggio cazzo, quindi resto qua. Sento di averci delle capacità. Sento che ce l'ho, ma nulla so sfruttare. So di per certo che qualcosa non andrà. E mi sento schiavo di sta mia mentalità. Uno per i soldi e lo show. La figa, l'erba e il mio cazzo di flow. Due per dove sono e per dove andrò. E per ogni sbaglio che ricommetterò. Tre per chi ci crede e ancora mi sostiene. E solo per voi se sta roba viene bene. Non avere preconcetti, questo è il senso di free mind. E se non lo sapevi, man, ora lo sai. Mi sei gratta ogni giorno, tu sei fraccia, sei una checa. E io sono più freddo, de una gratta checa. Te faccio questa strofa, becca testa secca. Nuovi stile P, nuova mina che se innesca. Pensieri e riflessioni, dentro ad una stanza. Mi chiudo con l'hip hop e non vado mai in vacanza. Spigne sempre stile, HKS. Chiudo cartine a rime e le faccio spesse. Piene di saggezza e di verità. Piene di tristezza e di sincerità. Qui per Roma mi faccio un bel giro. Riappiccio la canna e mi faccio un altro tiro. Mi guardo sti graffiti per le strade. Mi guardo attorno mentre la mia testa evade. In posti altrove, storie passate. Che mi accecchi dove ci passavo le serate. E guardano alcune cose come sono andate. Mi sono reso conto che pensavo alle cagate. Però ricollego e lascio sti rimpianti. Rifletto i miei obiettivi che già sono tanti. Pure ritornata, pure l'ispirazione. Per stringere l'hip hop con molta devozione. Bisogna anche agire per cambiare la situazione. Ogni giorno è hardcore e ci metto convinzione. Uno per i soldi e lo show. La figa, l'erba e il mio cazzo di flow. Due per dove sono e per dove andrò. E per ogni sbaglio che ricommetterò. Tre per chi ci crede e ancora mi sostiene. E solo per voi se sta roba viene bene. Non avere preconcetti, questo è il senso di free mind. E se non lo sapevi, man, ora lo sai. Vado avanti, me la rischio. De qualsiasi commento me ne infischio. Zitto, muto, non reagisci. Troppi di quei sensi, mi sa che non capisci. Ad ogni sfida avete FIFA come il gioco. Gente chiusa in casa, gente che vale poco. Starci dentro in questa realtà. Spingi, scrivi, date da fa. Fate un giro per la città. Cerco mille opportunità. Qui al bunker sto a registra. Vedi che qualcuno ha sempre da fa. E mi chiedo ma come va svolta. Se parli solo male al passo de crea. Free mind e veri balto. ORB all'assalto. Se io punto, punto in alto. Hardcore squad e me ne vanto. E con il Genervo adesso cose nuove. Superiamo e doppiamo la prova del 9. Con la nostra ganja e la testa altrove. Tocca ad asse che mi sa che piove. E se inizia, stiamo pure senza ombrello. Amico mio, ma chi ha detto quello?